una casa venne scanzi Dio, cu fu sopra una rocca la formau, all'occhio di lontano d'una sebiu, amaro che do cacci capitau. A mezza notte, in cielo sonno mio, uno scruscio di catene mi sbigliau, fantasimi cu torci attorno viu, luciato di li denti mi mancau, na duncella spuntau, quattu soro, encincau, ci circoli potenti, e da incia curcatu un nano moro, russi li focoli sovistimenti, intorno a lu cataletto un gran tesoro, ci cani, ci lune, ci serpenti, senti, senti, ma senti d'oro e di munita, grande lo stento meo di la me vita, ne giunta sola a mia m'arricriava, la disgrazia mia l'è sempre unita, per pigliare la forza mi mancava, e mai lo scordiroggio alla mia vita, su una via scanto ricco addiventava, chi da donzella potenti chi li comandava, un e due e ci gira e ferria, e ogni d'una d'intorno ad avanzava, come fa chi da ogni d'una facia. Catinata la testa mi dava, né d'uncelli né grana più fidia, e gli ciccani che abbaiono forti, li di una li serpi in compagnia, certo che avendo pintarmi morti, e lume cori scappare morria, ma son murati, oimè, tutti li porti. Casa d'incanti, se lo dichiaro, non sogno creduto, spirero li doncelli e tutti quanti, e la lumera pur anco aspiruto. Venno all'oscuro, diavoli tanti, culicati se n'hanno venuto, li me poveri carni spasimanti, lo sanno che sarcizio hanno avuto. Battuto come una gatta in salo sacco, pigliato come una cella ad un talo giucco, di lime carni m'hanno fatto macco, non m'avia manco l'arma a fare il rocco, non s'ha contato mai simile attacco alla rocca d'antedda e di re cucco, lo banco di bicis e di lo giacco su cosi dolci e servono pezzucco, un cucco vinne con l'occhi di ramo, cucù feci cervoti e ancora tremo, rapi la terra e dincia subissamo, non saccio dirvi a quale inferno semo, non saccio come vinni a scattivare, le bastonate mi fanno morire, eu l'è veduto e ve lo posso dire, alla casa incantata non ci passare, ali sordi masati, un ci spirare, ma li pittia ti scorzano l'anni. Raccomandati a Dio, che santo grande. Raccomandati a Dio, che santo grande. Raccomandati.